Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. I dati ci dicono che un italiano su tre ormai fa acquisti online. Gli shopper italiani sono più di 18 milioni e l'e-commerce in Italia vale quasi 20 miliardi di euro, in crescita a doppia cifra anno su anno. Questo è lo scenario nel quale moltissime realtà cercano di ricavarsi uno spazio e una relazione fedele, diciamo così, con il consumatore. Oggi ve ne raccontiamo due, una punta sul risparmio nell'acquisto, l'altra sulla consegna perfetta. Da piatto tipico a simbolo di solidarietà, un vero e proprio mito del consumo, la matriciana è diventata la chiave per l'attivazione post-terremoto. Gli agricoltori italiani hanno lanciato il kit solidale per aiutare le aziende agricole colpite dal sisma. Nel focus sui trend spazio agli algoritmi, i nuovi protagonisti del mondo dei consumi, riflessione finale dedicata invece alla generazione di mezzo, i quarantenni. Compri un camion intero di birra, è ovvio che ti dice che sei il suo miglior cliente. Ma scusa, con quello che spendi è scontato. Scontato un cacchio, non mi ha tolto neanche mezzo centesimo quel bastardo. E-commerce e caccia allo sconto, un binomio ormai inscindibile che ci costa, diciamo così, molto tempo e molti click. Questo spiega il successo di RetailMeNot, un sito, una piattaforma di offerte digitali che seleziona codici sconto e coupon da usare sui siti di e-commerce. Presente in Italia da qualche mese, RetailMeNot è il più grande marketplace di offerte digitali al mondo. Ci siamo fatti spiegare come funziona da Giulio Montemagno, Senior Vice President di RetailMeNot. Ogni giorno gli consumatori possono venire sul nostro sito e trovare decine di migliaia di offerte che noi abbiamo verificato per loro, che rendiamo disponibili da parte di tutti i brand e retail presenti sul mercato italiano. I consumatori arrivano sul nostro sito in maniera completamente gratuita e possono usufruire di coupon, codici sconto e anche offerte di cashback, quindi riversiamo loro una parte dei loro acquisti e gli diamo la possibilità di fare acquisti presso tutti i loro retail e brand preferiti in maniera gratuita e ottenendo sconti sostanziali tutte le volte che fanno acquisti su internet. Uno dei vostri punti forti è la community. Esatto, abbiamo una community di centinaia di utilizzatori che ogni giorno sul sito condividono nuovi codici sconto e li mettono a disposizione di tutti gli utenti della community. Verificano loro stessi che il codice sconto su RetailMeNot funzionino e per questo vengono ricompensati con dei punti e al termine di un certo periodo, raggiunto un numero minimo di punti, possono convertire questi punti in voucher o ulteriori codici sconto da utilizzare sempre presso i loro retailer e brand preferiti. In che misura la ricerca dello sconto è diventata l'elemento trainante dell'e-commerce anche in Italia? In misura molto importante, secondo varie ricerche che abbiamo fatto in Europa e che faremo presto anche in Italia, oltre il 40% di tutti i consumatori ad oggi su internet afferma di fare shopping online per trovare l'offerta migliore. Il 40% dichiara di visitare il maggior numero di siti possibile per trovare la migliore offerta e ad oggi il 55% degli utilizzatori abbandona il carrello, quindi non conclude l'acquisto su un sito commerciante se non ha trovato un codice sconto, una promozione o uno sconto per quell'articolo specifico che sta comprando. Quindi gli italiani, come tutti i consumatori europei, sono estremamente attenti al prezzo e utilizzano internet per trovare quello che cercano pagando il prezzo più giusto e noi mettiamo a loro disposizione appunto decine di migliaia di codici sconti in modo che possano farlo in maniera efficace.

Pasta, guanciale, pomodori e pecorino. La matriciana è diventata il simbolo dell'impegno per la ricostruzione dopo il terremoto del 24 agosto scorso e gli agricoltori sono scesi in campo con il kit solidale. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Nella seconda parte parleremo anche di algoritmi ed emozioni. Restate con noi. Essere e avere. My thoughts are with you. Te amo, amatrici. Te amo, amatrici. Te amo, amatrici. Te amo, amatrici. Era il 29 agosto scorso, 5 giorni dopo il terremoto che ha sconvolto il centro Italia. In un video pubblicato su Facebook, davanti ad un piatto di penne alla matriciana, la famiglia Kennedy esprimeva la propria solidarietà alle popolazioni colpite. Un mito del consumo, dunque, come leva di attivazione e partecipazione. Va in questa direzione l'iniziativa della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, per sostenere le aziende agricole danneggiate dal sisma. Un kit solidale, ingredienti e ricetta d'autore per cucinare a casa la vera amatriciana e la vera gricia. Fino a domani al Salone del Gusto di Torino e in molte piazze italiane grazie al circuito spesa in campagna e poi in una serie di eventi sparsi sul territorio fino alla giornata internazionale della pasta che si terrà il prossimo 25 ottobre. E il presidente di CIA, Dino Scanavino, non esclude di portare l'iniziativa anche all'estero. Tra le azioni che ci sono venute in mente per tenere vivo anche la questione, perché poi in Italia le cose si infiammano e si spengono presto, e per raccogliere risorse da destinare a queste aziende abbiamo pensato a questo kit della matriciana e della gricia, con tutti i componenti per cucinare per una famiglia una volta la pasta. Abbiamo trovato degli sponsor, abbiamo messo in movimento una serie di sensibilità che ci hanno consentito di arrivare a questo prodotto. Ora, immaginiamo che questo possa essere, appunto, come dicevo e chiudo, un elemento per raccogliere risorse, per valorizzare una ricetta che comunque è l'emblema della gastronomia italiana e anche per dialogare con i cittadini rispetto al tema della drammaticità che un evento come un terremoto ha sulla popolazione in generale, ma sugli agricoltori in particolare, che hanno delle caratteristiche del tutto particolari, singolari, e quindi soffrono non di più, in modo diverso, anche cose come questo sisma. Andrebbe a ruba anche all'estero, Presidente, ci avete pensato? Ma noi abbiamo una sede a Bruxelles, lei mi ha dato una buona idea. Focus sui trend. Sono i nuovi protagonisti del mondo dei consumi, decidono cosa mostrarci sui social network e quali prodotti o servizi proporci sui siti di e-commerce. Attraverso le app ci aiutano a fare molte cose della nostra quotidianità e ora ci affiancano anche nelle emozioni. Sono gli algoritmi, ne parliamo nel focus sui trend di questa settimana insieme a Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Ciao Paolo, bentrovato. Ciao, buongiorno. Partiamo dalla definizione di questa tendenza. Voi parlate di algorithmic touch. Proprio abbiamo voluto creare anche con il nome di questa tendenza un po' una lettura di quello che sta succedendo oggi con gli algoritmi. Non lo sappiamo, ce li abbiamo nei nostri telefoni, ce li abbiamo nei nostri tablet, addirittura ce li abbiamo nelle nostre automobili. Sono gli algoritmi, quindi sono dei complessi calcoli matematici che mettono assieme dei dati e fanno succedere delle cose. Chiaramente questo diventa uno strumento, come dire, molto utile, molto interessante anche per il mondo della comunicazione, proprio nel momento in cui vuole far scattare l'emozione, vuole far scattare un ricordo, oppure magari vuole far scattare anche l'acquisto. Quando pensiamo agli algoritmi pensiamo a delle cose fredde, delle cose appunto legate solo a numeri e computer. In realtà oggi gli algoritmi vengono usati tantissimo proprio per scatenare delle piccole reazioni, addirittura si parla anche di algoritmi emotivi, di algoritmi empatici, che vengono usati ad esempio nelle forme più avanzate di robotica, magari per l'assistenza agli anziani o per l'assistenza ai malati, in isolamento, eccetera. Quindi algoritmi che cercano di reagire anche in base alle nostre emozioni, magari darci appunto delle emozioni. Ecco perché parliamo di algoritmi touch. Iniziamo a raccontare i casi che hai selezionato per noi. Un esempio che insomma è già abbastanza noto è quello dei Muse, gruppo rock, che ha fatto un concerto proprio intitolato Droni, in cui diciamo le luci sono portate in giro letteralmente per il palazzetto da dei droni giganteschi, dei palloni che hanno all'interno delle luci che reagiscono in base ai suoni dell'ambiente, ma in alcuni casi nei concerti abbiamo visto anche delle luci che reagiscono in base alle reazioni delle persone. Oppure un'app molto interessante che è stata sviluppata dai Massive Attack, il gruppo inglese, grazie alla quale il ritmo dei brani che stiamo ascoltando si sincronizza con il battito del nostro cuore. Quindi siamo uno smartwatch che misura il battito del nostro cuore, un algoritmo rielabora la musica proprio in base al nostro ritmo vitale, proprio al nostro battito cardiaco. Nessun settore è ormai immune a dati e algoritmi, anche l'arte. Anche l'arte, esatto. Un caso abbastanza eclatante è quello di The Next Rembrandt, che è stato promosso da ING Bank. Loro, in collaborazione con Microsoft, hanno utilizzato un cosiddetto learning algorithm, cioè questi algoritmi che imparano, addirittura che in un certo qual modo si programmano da soli. E cosa hanno fatto? Hanno analizzato tutti i ritratti di Rembrandt e hanno chiesto a questo algoritmo di realizzare un quadro di Rembrandt che però non esiste, quindi non una copia perfetta, ma un quadro che avrebbe potuto fare Rembrandt se fosse ancora tra di noi. Poi il quadro è stato chiaramente elaborato, è stato stampato con una stampante 3D talmente sofisticata da riprodurre anche lo spessore della pennellata del quadro. Il risultato è veramente impressionante, è stato esposto anche in diversi musei del mondo e sembra effettivamente un dipinto che però non è stato fatto da Rembrandt, ma è stato fatto da un algoritmo, questo bisogna dirlo, guidato però da degli esseri umani, perché insomma a certi livelli poi il contributo umano è fondamentale. Un caso proprio, una cosa super emergente che arriva da Kickstarter, quindi insomma un progetto che diventerà realtà molto presto, si tratta di Gemio. È un braccialetto che può essere indossato in discoteca o ai concerti, eccetera. Un braccialetto con dei LED che si illuminano sincronizzando il nostro battito cardiaco con la musica all'esterno, ma può essere anche utilizzato per inviare messaggi rapidi ai nostri amici, che di solito nella confusione della discoteca o del concerto sono difficili da contattare, messaggi semplici come ci vediamo fuori, oppure sto andando via, eccetera. Non possiamo parlare di algoritmi e consumi senza citare la polemica sui social network, Facebook e newsfeed, cioè il modo in cui i social network ci propongono dei contenuti piuttosto che altri. Allora, penso che sarebbe sempre molto utile avere il tasto on e off a portata di mano, nel senso che molto spesso queste applicazioni, proprio per amor di raccolta dei dati, mettiamola così, hanno delle impostazioni predefinite che chiaramente permettono di raccogliere tantissimi dati. Ecco, dal mio punto di vista, se avessimo la possibilità di dire sì o no in maniera molto chiara e molto netta nel momento in cui accediamo a questi servizi, sarebbe un vantaggio sicuramente per tutti. Così che continuino a farci vedere un mondo anche diverso dal nostro, non necessariamente ritagliato sui nostri gusti, la nostra cerchia di amici, insomma una finestra aperta sul mondo al di fuori di noi e del nostro contesto è pur sempre utile. Io ho un po' di nostalgia per l'effetto sorpresa dei primi tempi di internet, quando era surrealismo puro, quando trovavi delle cose meravigliose, magari anche delle cose terribili, ma sicuramente le cose che non ti aspettavi. Ecco, questo succede sempre meno, proprio perché gli algoritmi sono così precisi, così su misura, così attenti a tutti i nostri comportamenti che proprio ci fanno mancare questo effetto di scoperta. Sono assolutamente d'accordo, nostalgia serendipity, Paolo, in questo caso. Esatto. Ti ringrazio, alla prossima. Grazie a te, a presto, grazie, ciao. Il consumautore. Il mondo dei consumi sta cambiando all'insegna di un protagonismo dei consumatori, meglio dei consumautori, mai così accentuato. A guidarci nella riflessione sul cambiamento c'è, come sempre, Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa. Anche questa sera partiamo da un libro. Sì, partiamo da un libro e da un incrocio interessante, sempre più consueto, perché è un libro di Michela Murgia, che tutti noi conosciamo, grande scrittrice anche proprio di racconti della sua Sardegna, ma questa volta il suo piccolo libro, ma davvero gustoso, si dedica al futuro e si chiama proprio Futuro Interiore ed è legato ad una lettura di alcuni fenomeni. Quello che mi interessava stasera sottolineare è l'analisi di una generazione, anche perché è anche il tema di un libro che ti riguarda tanto, Maria Luisa, perché tra pochi giorni uscirà il nuovo libro che si chiama proprio Consumautori, quindi come la rubrica della tua trasmissione. Beh, insomma, il tuo libro che prende spunto appunto dalla nostra rubrica, dai nostri anni di confronto, di dialogo, di analisi, mi anticipavi, Francesco, una sorta di generazione di mezzo, questa dei quarantenni. Sì, Michela Murgia, con la sua capacità quasi letteraria, descrive molto bene quello che viene raccontato anche nel libro, cioè una generazione, noi l'abbiamo definita dei new normals, no? Dei normali che però hanno difficoltà perché hanno da un lato perso il passaggio, diciamo, del paradigma ideologico, quello dei loro genitori, no? Dei boomers, dei sessantenni, con le loro ideologie, con le loro visioni del mondo, ma hanno anche perso la rivoluzione dei nativi digitali, quindi hanno perso i paradigmi tecnologici e quindi si trovano un po' in difficoltà per trovare una loro, diciamo, collocazione nel mondo di oggi. È una generazione precaria per definizione, quindi appunto in grandi difficoltà. Io credo che il loro ruolo possa essere di ponte tra queste due generazioni che sono in qualche modo state più fortunate, perché è chiaro che ad esempio i genitori quarantenni con figli, ragazzi magari di 15 anni, ma anche con genitori di 60 e più anni, possono costituire una sorta di cerniera, non solo psicologica, per lavorare nella direzione di una società intergenerazionale. Se riescono a fare questo, partendo quindi dalla loro dimensione affettiva, credo che possono avere un grande ruolo e possono loro stesso sentirsi meglio. Anche perché sempre di più ci ha insegnato spesso Francesco, i punti di contatto si creano sulla pratica, sul fare. Insomma. Sul fare della vita quotidiana, e dove devo dire i new normals, soprattutto devo dire le donne, possono veramente fare tanto. Ecco, quindi abbandonare l'idea di trovare una collocazione d'immagine, di esibizione, per quello li chiamiamo i nuovi normali, perché va benissimo che siano normali, però invece giocarsi sul tema proprio dell'affetto e della reciprocità. Ecco, questo lo possono fare molto bene. Grazie a Francesco Morace, grazie a Pietro Lacorte in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.